Ok, allora appunto stavamo approfondendo nella scorsa lezione quanto è scritto nella Mishnah di quali sono i punti in cui si può interrompere durante lo Shema e per cosa si può interrompere, la discussione sulla interruzione per il rispetto della persona o se solo per un caso di pericolo, per il timore di una persona eventuale. E abbiamo concluso quell'aspetto dell'analisi della Mishnah. Ora la Gemara dice che è stata sollevata una domanda che riguarda sempre le interruzioni, ma in un altro punto della Tefilah, e la domanda è se è paragonabile a quanto abbiamo detto riguardo lo Shema oppure non è paragonabile. Vediamo di che si tratta. La Gemara dice così: Ba'a minei ha chiesto a lui. Ba'a è un verbo in aramaico che viene da ba'ya. In ebraico si dice ba'ya, problema. In aramaico ba'ya è una she'elah, una domanda, una richiesta di informazione, non una difficoltà, ma una domanda. Cosa è la differenza tra una difficoltà ed una domanda? Una difficoltà si chiama nella Gemara kashya o kushya, come cachè, difficile, duro, cioè rappresenterebbe una difficoltà che nasce per esempio da una contraddizione tra delle fonti. Se in una fonte c'è scritto sì e in un'altra fonte c'è scritto no, è una cushia e dobbiamo trovare una soluzione. O la soluzione può essere che forse una di queste fonti non è esatta, oppure forse tratta un caso diverso da quello che pensavamo che tratta, e quindi non c'è contraddizione, e così via. Questa è una kushya. La Gemara, se qui fosse una kushya, avrebbe detto kashya lei, gli è difficile, oppure avrebbe usato un altro termine rispetto a se la domanda, se questa difficoltà nasce per una contraddizione, per una Mishnah o una Baraita. Ci sono diversi modi di introdurre la domanda, quando li vedremo, li porteremo a rilievo. Qui invece qui è Ba'a, Ba'aya è il nome, diciamo il termine, e il verbo qui, Be'amine, chiese a lui. Non è una difficoltà, non è una contraddizione, è una mancanza di informazioni. Qual è l'alaha, nel caso che sarà descritto? Ba'aminei, allora chi chiese a chi? Chi chiede si chiama Achai. Chi è questo Achai? Lui è il Tana. Ora spiego cosa è un Tana, non è il senso tradizionale di maestro della Mishnah, ma è il Tana di Deve Rabbi Chia, della casa di Rabbi Chia, cioè la casa di studio, la Yeshiva. Questo Achai chiese a me Rabbi Chia, chiese a Rabbi Chia, il capo di questa Yeshiva. Allora, cosa è un Tana? Tutti sappiamo che il Tana è la descrizione, è il titolo dei maestri della Mishnah. Tanaim, a differenza di Amoraim, che sono i maestri della Gemara, ma c'è un altro senso alla parola Tana, ed è il seguente. Come abbiamo studiato in passato, in particolare quando abbiamo fatto l'introduzione allo studio di Mishnah e di Gemara, abbiamo capito che la Torah Shebe'al Peh, la Torah orale, non si poteva mettere per iscritto. E anche quando è stata redatta la Mishnah, non tutti sono d'accordo che è stata subito scritta. È stata redatta come corpo che doveva ancora rimanere essere orale. Ma anche se fosse messa per iscritto, c'erano ancora tantissime fonti che non erano ancora state messe per iscritto, come le Beraitot, le Tosafot, molte altre fonti di insegnamenti dei Tanaim, di Torah Shebe'al Peh, che non sono stati messi per iscritto. Ora, un maestro che insegna ovviamente deve conoscere le fonti. Ed è scontato che conosca a memoria tutte le fonti di Mishnah vera e propria. Ma non sempre ogni maestro conosce a memoria tutte le altre vastissime fonti che ci sono. Visto che esistono delle persone che sono particolarmente dotate nel campo della memoria, ok? E c'erano alcuni, che si occupavano proprio di ricordare, di conoscere a memoria tutte queste fonti, questa persona aveva un compito e si chiamava il titolo della persona Etana. In questo senso, il suo compito era di essere come un enciclopedia vivente. Un esperto. Sì, l'avevamo detto forse. Lui era la persona che, come aveva Google, questo compito proprio. Aveva questo compito. Aveva questo compito. E aveva questo compito, e molto spesso in ogni yeshiva dove si studiava, casa di studio, c'era una persona che aveva, che era il Tana ufficiale di quella yeshiva. In questo caso, famosa yeshiva di Rabbi Chia, c'era un Tana. Normalmente, molto spesso si dice il Tana disse senza conoscere il suo nome, qui in questo caso sappiamo anche qual era il suo nome. Achai era il Tana della yeshiva di Rabbi Chia. Lui pone una domanda a Rabbi Chia stesso. Ora è chiaro che se la sua, se la risposta a questa domanda fosse già scritta, fosse già detta, diciamo, in una delle Beraitot, in una delle fonti, lui la saprebbe. Evidentemente si tratta di una cosa che non è, che non è esplicita, che non è esplicita, quindi lui non ha l'autorità di decidere l'alaha, non è lui il capo della yeshiva, però lui espone la domanda. Qual è la domanda? Vediamo. Allora, di nuovo le parole della Gemara. Baminei Achai, chiese a lui Achai, Achai chiese, chi era Achai? Tana, era il Tana de Rabbi Chia, della yeshiva di Rabbi Chia. Chiese a Rabbi Chia, me Rabbi Chia. Seguente domanda. Behallel ubi Megillah, quando si recita il Hallel, la preghiera di lode che si dice durante le festività, per esempio a Sukkot tutti i giorni diciamo Hallel con la Berachah, o a Rosh Chodesh, però Rosh Chodesh è mezzo Hallel, senza Berachah diciamo, oppure Hanukkah che è tutti i giorni con la Berachah, Ubi Megillah, e quando si sente o si legge la lettura della Megillah, Mahu Sheyafsik, Mahu vuol dire letteralmente cos'è. Il senso della domanda è qual è la halakha, qual è la regola riguardante Sheyafsik, riguardante la interruzione. È permesso interrompere per salutare? Abbiamo parlato nello Shema, se è permesso o vietato, se qualcuno ti dà il saluto, se è permesso risalutare o se è permesso addirittura a priori salutare. Abbiamo detto che ci sono casi in cui è permesso, tra un brano e l'altro, se una persona a cui devi portare rispetto, eccetera. Ora, la domanda è applicata a altre situazioni, ad esempio la lettura della Megillah o la recitazione del Hallel. Maushe Yafsik. Ora, questo Achai, che è il Tana della Yeshiva di Rabbi Chia, prosegue a spiegare le motivazioni, quali potrebbero essere in un modo o in un altro, ovvero per dire che è permesso o per dire che sarebbe vietato invece. Quindi queste ancora saranno le sue parole di chi chiede, di chi pone la domanda. Vediamo cosa, come dà motivazione alla domanda. Amrinan kal vachomer, amrinan, diciamo, potremmo dire il seguente ragionamento, che, segnate questa parola, kal vachomer, a maggior ragione, ragionamento a fortiori, cioè, questa è una logica che si usa, è tra le 13 regole di derashà, cioè di estrapolazione di significato dai versetti della Torah, tra le 13 regole che esistono, di Rabbi Ishmael, c'è il kal vachomer. Kal vachomer, ragionamento a fortiori. È scritto solo Kuf Vav. Quella è. Ah, Kuf Vav è il acronimo della parola kal. Kal vuol dire leggero, vachomer vuol dire rigoroso. Cioè, se una regola si applica in un caso che è considerato leggero, kal, a maggior ragione che si deve applicare la stessa regola dove è più chomer, dove è più rigorosa la situazione. E quindi anche il contrario, se in una situazione di rigore esiste una facilitazione. È chiaro che in un caso di meno rigore sicuramente esisterà quella facilitazione. Giusto? Allora la sua domanda è questa. Diciamo il kal vachomer, quale sarebbe il kal vachomer? Quale sarebbe il ragionamento in questo nostro caso? Adesso lo dice esplicitamente. Kriat Shema, abbiamo da una parte la cosa rigorosa, che è lo Shema. Perché è rigorosa? De oraita. Cosa vuol dire de oraita? Regola. Una regola della Torah. Oraita è Torah in aramaico. Quindi de oraita vuol dire dalla Torah. Cioè una regola biblica. Quindi è più rigorosa. Se lo Shema, che è una regola de oraita della Torah, posek, bisogna interrompere, in alcuni casi anche nello Shema si interrompe, allora nel caso di Hallel, che è quella meno rigorosa, perché de Rabbanan, perché è una regola dei maestri, recitare Hallel è una mitzvah che non è de oraita, che è de Rabbanan, che è dei maestri, mi baia, è forse necessario dire che è permesso interrompere? Chiaro che è permesso interrompere. Se è permesso per una cosa che è de oraita come lo Shema, sicuramente a maggior ragione sarà permesso per una cosa de Rabbanan come Hallel e chiaramente anche la Megillah, che è anche una regola de Rabbanan, vero? Scritto sulla Torah che bisogna leggere la Megillah? No, ovviamente. È una regola, è una istituzione rabbinica, è una mitzvah de Rabbanan. Questo è, da un lato, sembrerebbe che per il ragionamento kal vachomer, che sarebbe permesso interrompere nel Hallel e nella Megillah per salutare. A maggior ragione, se lo si può fare nello Shema, sicuramente nel Hallel e nella Megillah. Dall'altra parte, dice sempre Achai, forse non è così, perché? Forse c'è un altro elemento che fa sì che per ciò che riguarda questa cosa qui, anche se in generale queste due cose indicate, Hallel e Megillah, sono meno rigorose dello Shema perché non sono de Oraita, non sono della Torah, però forse c'è un'altra cosa da considerare per la quale invece non si applicherebbe questo kal vachomer. Cosa sarebbe questa considerazione? La considerazione sarebbe o Dilma, oppure forse, letteralmente, o Dilma, oppure forse, guardate le parole della Gemara, o Dilma, oppure forse, cioè d'altro canto, forse dovremmo dire, Pirsumme nisa adif, Pirsumme nisa, Pirsum, cosa vuol dire Pirsum? Pubblicizzare. Rendere pubblico Nissa, il Nes, il miracolo, pubblicizzare il miracolo, Adif è meglio, cioè ha la priorità. E la mitzvah di Hallel e la mitzvah di lettura di Megillah, entrambe sono legate al concetto di Pirsum Nes, cioè festeggiamo e ricordiamo un miracolo avvenuto e ringraziamo e lodiamo Hashem per questa cosa. Forse per questo principio di Pirsum Anes bisognerebbe non interrompere, cioè questa cosa ha la priorità rispetto al saluto per il quale vorresti interrompere. Cioè da una parte diciamo forse lo Shema è più rigoroso perché è della Torah e quindi sicuramente per altre cose meno rigorose come Hallel e Megillah si può interrompere, dice sì, però... D'altra parte ci sarebbe un'altra considerazione, che qui c'è una cosa particolare, che non c'è nello Shema, che è Pirsum Anes, pubblicizzare il miracolo, e forse per questo principio bisognerebbe appunto non interrompere. Giusto? Questa è la domanda di Achai. Una buona domanda. No? Ci siamo tutti? Qual è la risposta? Rabbi Chia ha risposto nella seguente maniera, leggiamo. C'è l'acronimo Alef Lamed, no? Amar Lei. Amar Lei, disse a lui, gli rispose. In maniera molto semplice, molto netta, gli rispose dicendo queste quattro parole. Posek, interrompa chi stia in mezzo all'Alel o la Megillah, interrompa per il saluto. ve'en bekach kelum, e in questo non c'è nulla, cioè e non fa niente, si direbbe in italiano, interrompe e non fa niente, cioè la domanda, quasi come se dicesse la domanda non ha importanza, non è neanche una domanda. En bekach klum, non è che dice interrompi perché a maggior ragione dallo Shema, se può interrompere lì, allora sicuramente può interrompere qui, cioè, se proprio non fa niente, en bekach klum. Non esiste il problema, secondo Rabbi Chia, non c'è proprio la domanda. Però, questa cosa, questa semplicità, diciamo, nella risposta, non è assolutamente condivisa da tutti i maestri. Strano, eh? Amar Rabba, disse Rabba, secondo me la cosa non è così semplice, invece non è che non fa niente, c'è qualcosa qui. C'è qualche indicazione più specifica? La cosa è meno semplice di quanto diceva Rabbi Chia secondo Rabba. Rabba dice così. Dipende che tipo di Hallel. Cosa vuol dire che tipo di Hallel? Come abbiamo accennato anche prima qui, avete accennato che ci sono giorni in cui si dice l'Hallel per intero e ci sono giorni in cui non si dice per intero, che si saltano due brani. Per quale motivo si saltano due brani in alcuni giorni? Il motivo è perché in alcuni giorni abbiamo un obbligo, è considerata mitzvah, quella di recitare Hallel. Perché abbiamo un obbligo? Di nuovo, è una mitzvah dei Rabbanan, è una mitzvah dei Chachamim, ma i Chachamim l'hanno istituito come obbligo, così come hanno istituito che bisogna leggere la Megillah Purim e bisogna accendere le candele di Hanukkah a Hanukkah, hanno anche istituito che in alcune situazioni bisogna recitare Hallel. E lì c'è l'obbligo di recitare Hallel, lì si chiama mitzvah e si recita Hallel per intero. Alcuni giorni esistono durante i quali si legge Hallel, si recita Hallel, ma non per mitzvah, bensì per minhag, cioè per usanza. Ovvero non è iniziata come un obbligo assoluto. I Chachamim non hanno istituito questo come un giorno in cui bisogna dire Hallel. E però è nato il minhag di ringraziare Kadosh Baruch Hu, di recitare Hallel in quel giorno. Il minhag fa parte dell'Halakha, ma c'è una distinzione, nel senso che non si recita tutto per intero, proprio per indicare che non in questo giorno, per distinguere che questo è un giorno in cui non hanno istituito i Chachamim di recitare il Hallel. Per esempio, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh è per Minhag, non per istituzione rabbinica, e quindi si salta, è parziale, si dice la maggior parte, ma due pezzi di due brani sono omessi. E quindi non è neanche obbligatorio. E anche, no. E anche tutti i giorni, gli ultimi giorni di Pesach, non i primi due, ma gli ultimi giorni di Pesach, sono anche Minhag. Sukkot è sempre completo, Hanukkah è sempre completo, fa parte dell'istituzione. Sì? E? Bravo, manca uno. Shavuot, bravissimo. Rashi dice sono 21 giorni l'anno che sono obbligatori, 21 giorni considerando i giorni di Moed fuori da Eretz Israel, 21 giorni l'anno che si dice completo. Allora, sì, quali sono i 21? 9 a Sukkot con Simchat Torah, 8 di Hanukkah, ok, siamo a 17. Poi c'è Shavuot e sono 18. 19. 19, poi abbiamo detto i primi due di Pesach. I primi due giorni di Pesach. Solo il primo, perché solo noi facciamo i primi. No. Stiamo parlando con il secondo giorno di Moed. Però ci siamo arrivati 21, 19. 22. Sì, quando Rashi dice 21 è inteso con i giorni che con i giorni con, sì. Incluso il secondo giorno di Moed. Quindi in Eretz Israel sono meno di 21. Sono 21 giorni in cui si dice completo. Uno in meno di Pesach, uno in meno di Shavuot e uno in meno di Sukkot. Sono tre in meno. Noi, sì. Ma questo fa parte di un minag. No, questa è una istituzione dei Rabbanan, questa è una mitzvah. Il Minhag sono gli altri giorni in cui si celebra, come Rosh Chodesh o gli ultimi giorni di Pesach. Però questo Minhag, sì? Quello che penso, ci sono i Minhag, come dice, quello tripolino. No, no, questo è un altro tipo di Minhag, non è in questo senso. Non è in questo senso. No, no, questo è un altro tipo di Minhag. Non è usanza. Non è uso di questa comunità o quella. Capire. Sì, sì, sì. Ora, torniamo a noi. Rabba dice, Amar Rabba, Yamim, i giorni in cui Shehayachid gomer bahen et ha'alel, i giorni in cui la persona che prega conclude, gomer, conclude l'intero ha'alel, cioè che i giorni in cui l'ha'alel è un obbligo, ok? Ben perek le perek posek. Può interrompere per il saluto tra un brano e l'altro, diventa simile allo Shema, tra un brano e l'altro, però be'emza perek, ma in mezzo al brano, e inoposek, non interrompe, dice Rabbà. Questo nei giorni in cui Hallel è obbligatorio. Però, continua Rabbà e dice, ve'yamim she'en ha'yachid gomer benet Hallel, mentre invece i giorni in cui non conclude Hallel, cioè non dice l'Hallel intero, in quel caso afilu be'emza haperek posek, anche se si dovesse trovare in mezzo al brano, può interrompere. Ok? Allora, molto diverso da quanto diceva Rabbi Chia. Rabbi Chia diceva, non fa niente, non c'entra niente, come se ha detto, la tua domanda non è proprio valida. Invece Rabbà dice no. Mi sono perso. Che okay. Significa non è proprio valida la domanda? Cioè, no, è come se lui dicesse non ci poniamo neanche il problema, interrompi quando vuoi. Sì, sì, in questo senso. No, no, scusa. Come? Prima la domanda era forse dobbiamo fare il paragone con lo Shema, a maggior ragione se si fa lì, allora... forse si può fare per Hallel, perché Hallel è meno rigoroso, oppure forse vogliamo vedere il principio del pubblicizzare il miracolo, dare importanza a questo, e quindi vogliamo dire che non si interrompe. Questa era la domanda di Achai. Rabbi Chia ha detto, non fa niente, fai quello che ti pare, interrompi, non c'è problema. Rabbà ha detto, no, non dire non fa niente. Dipende. C'è la differenza tra Hallel obbligatorio e Hallel Minag. Hallel quando è Chovah, quando è obbligatorio, allora è come lo Shema, simile allo Shema. Si può interrompere tra un brano e l'altro, ma non in mezzo al brano. Questo l'ha detto Rabbà. Rabbà. Sì. Mentre invece nei giorni in cui è Minhag come Rosh Chodesh, si può interrompere se serve anche in mezzo al brano stesso. Questa è la distinzione che fa Rabbà. Ok? Ora, la Gemara dice, Eini, è forse così? È forse davvero così? Abbiamo adesso qualche indicazione che ci dà l'idea che non è necessariamente così. Qual è l'idea? Qual è l'indicazione? L'indicazione sarà non da una fonte di maestri che hanno insegnato qualcosa, ma dal comportamento specifico di un maestro, che noi impariamo dai comportamenti dei maestri, ma a Serav abbiamo già studiato questo concetto, il comportamento è considerato quasi la cosa definitiva come insegnamento, più ancora della fonte, perché è il comportamento vivo. A volte la fonte si applica in un certo caso, non si applica in un altro, bisogna sapere le distinzioni, gli approfondimenti, eccetera. Però il fatto comportamento messo in atto è come se fosse legge scritta. Allora, qual è il comportamento che abbiamo visto? Dice Gbraini, è forse così? Ah, Rav Bar Shaba, uno dei maestri che si chiama Rav Bar Shaba, Ikla le Gabei de Ravina. È capitato presso di un grande maestro che si chiama Ravina. Ravina è uno dei redattori della Gemara, del Talmud Bavli, Talmud babilonese. Grande maestro. Un maestro di minore importanza, Rav Bar Shaba, era capitato presso il luogo in cui Ravina stava pregando. Ed era anche un giorno speciale come Rosh Chodesh. Non c'è scritto che giorno era, ma era un giorno in cui non si dice l'Alel intero. Ve'yamim she'en hayachid gomeret Alel hava. Hava vuol dire era. Era uno dei giorni in cui non si conclude l'intero Alel. Per esempio, diciamo che era Rosh Chodesh, ok? È entrato un maestro al tempio, che era Rav Bar Shabba, e Ravina ha visto che è entrato questo maestro e non ha interrotto per salutarlo per rispetto. Vela pasek lei, e non ha interrotto per lui, cioè per salutarlo. Da questo comportamento, forse dovremmo capire che la halakha è che anche in un giorno in cui non si recita tutto l'alel, un giorno in cui l'alel è minhag e non è obbligo, come lo shodesh, comunque non si interrompe. E non come ha detto Rabbà, che in questi giorni si interrompe, e sicuramente non come ha detto Rabbi Chia, che non fa niente, interrompi quando vuoi. Cioè abbiamo da una parte Rabbi Chia e Rabbà, e dall'altra Ravina, che non interrompe anche in un giorno in cui non si conclude l'alel. Molto rigoroso sembra. Sembra che sia molto rigoroso. Allora siamo confusi un attimino. La Gemara dice non c'è motivo di confusione. Risolve subito la questione dicendo Shane. Shane vuol dire diverso. È diverso il caso di Rav Bar Shabba. Questo caso specifico, che Rav Bar Shabba entrò presso di Ravina, ricordiamo che Ravina era una figura molto importante, la Gemara adesso ci dirà che Rav Bar Shabba non era considerata una figura così importante nei confronti di Ravina. Sì, era un Rav, era un maestro, e sicuramente qualcun altro avrebbe dovuto interrompere per salutare Rav Bar Shabba, ma per Ravina, che era su un altro livello, la chasheva lei de Ravina. Non era sufficientemente importante Rav Bar Shabba che Ravina interrompi per salutarlo. Perché si interrompe? Per Kavod. Lui non era nessuno. Non che non era nessuno, no. Non fino a questo punto. No, non che non era nessuno, ma... Sì, lo so. Ravina non aveva quel dovere di rispetto nei confronti di Rav Bar Shabba come si ha per una persona più importante di sé, che è il concetto di kavod, per il quale abbiamo detto bisogna interrompere anche tra un brano e l'altro nello Shema, almeno per rispondere in base a quello che abbiamo visto. Allora dice non c'è nessuna contraddizione e non possiamo prendere lezione da questo comportamento di Ravina, perché è vero che il comportamento è definitivo come insegnamento, ma va anche visto il caso perché si è comportato in quella maniera. Non possiamo dire ho visto un Rav che ha fatto così, vuol dire che questa è l'alaha, no? Prima chiedi se c'erano delle motivi personali, circostanze di cui non sei a conoscenza. O era sciolto, ma ancora visto. Ah, questo può essere, però evidentemente la Gemara dice che lo ha visto. Ma perché prima dici che devi guardare e seguire quello che fanno. Anche questo devi seguire. Devi seguire, è vero. Bisogna seguire i comportamenti dei maestri, però non decidere da soli in base a quei comportamenti, chiedere, chiarire se questo è un comportamento che va seguito. Magari un Rav ti dice, sì, mi sono comportato così, ma non è da seguire perché, come in questo caso, abbiamo fatto un'eccezione. Ma giusto perché stava pregando, perché sennò magari incontrando... Certo, abbiamo detto, è una questione di interruzione, non che non l'avrebbe, non che non si sarebbe comportato bene nei suoi confronti, non è questo il discorso. Il discorso, se rientra logicamente, bravo, hai fatto bene a sottolineare, se rientra logicamente nel concetto di kavod, e quindi se è necessario interrompere ai fini di... Ai fini di interruzione nella tefilah, non parliamo qui delle buone maniere. Per le buone maniere, certo che deve salutare quando finisce la tefilah. Ora, a livello di halakha, la domanda era sia per la lettura di Halel che per la lettura della Megillah. Però noi abbiamo affrontato solamente l'aspetto di Halel. In realtà poi i commentatori e i codificatori successivi dicono che la stessa cosa si applica anche alla lettura della Megillah, cioè che normalmente non bisogna interrompere mentre si legge la Megillah, ma è permesso secondo le stesse regole che si applicano allo Shema e come le abbiamo applicate anche all'Allel, cioè tra un brano e l'altro, e non all'interno di un brano, in mezzo a un brano, e secondo appunto le regole del Kavod, e della Ira, del timore, come abbiamo detto nello Shema, e come abbiamo adesso applicato anche all'Allel, e l'Halakha è codificata così nello Shulchan Aruch, anche riguardo l'Allel, e con questa distinzione di Rabbah, e cioè che nei giorni in cui si dice l'Allel intero, ci si comporta come se ci fosse, come se ci si trovasse nello Shema, quindi di nuovo tra i brani ma non in mezzo al brano, mentre invece nei giorni in cui è Minhag, come Rosh Chodesh, e non si recita l'Allel per intero, in quei casi si può interrompere per rispetto, non così, ma per rispetto anche in mezzo al brano. Quando Hallel è non obbligatorio, cioè quando è mezzo Hallel, parziale. La Megillah, i brani si intende con i blocchi... Capitoli. Diciamo, i capitoli, sì. Primo, secondo. Ogni capitolo, ci sono 9 capitoli nella Megillah. Ok? Ok, e qui la Gemara conclude questa questione e apre subito un'altra questione. Visto che abbiamo fatto... una domanda, abbiamo citato una domanda di un Tana di una yeshiva che ha posto al maestro della yeshiva, proseguiamo con un'altra domanda che fece un altro Tana di un'altra yeshiva al maestro di quella yeshiva. Qual è la domanda? Qui andiamo un po' fuori dal tema, però come ripeto, a volte la Gemara cita diverse cose che non sembrano essere legate per la struttura. È strutturata come la cosa che abbiamo appena citato. Abbiamo un'altra cosa strutturata in maniera simile, cioè un Tana di una yeshiva che fa, pone la domanda a un maestro della yeshiva. Qual è la domanda che fa? Baemine, anche in questo caso si cita il nome di questo Tana, Ashian. Questo Tana si chiama Ashian e lui era il Tana Devei Rabbi Ami. Era il Tana del Bet Midrash della Yeshiva di Rabbi Ami, chiese, pose la domanda a Rabbi Ami, me Rabbi Ami. La domanda che pose è questa: Sharui Betanit, una persona che si trova a digiuno e sta digiunando per un motivo di Halakha, o che è Tisha B'Av, o che è un digiuno personale, e così via. Una persona che sta digiunando e non può mangiare finché non conclude il digiuno. Mahu, quale sarebbe la halakha per ciò che riguarda Sheyit Om? Per ciò che riguarda un gustare una pietanza. Non per mangiare, ma per sapere se manca il sale. Assaggiare. Sheyit Om, qual è la halakha per ciò che riguarda il assaggiare? E lui, di nuovo, come ha fatto Achai nella domanda precedente, lui nella sua yeshiva ha motivato la sua domanda nella seguente maniera, dicendo così. Leggiamo. Achila ushtia kabila lei. Per ciò che riguarda mangiare e bere, achila, mangiare, ushtia e bere, kabila lei ha accettato su di sé di astenersi dal mangiare e bere per il suo tanit. Facciamo il caso che è più che altro un tanit personale, ok? Lui, esiste il concetto che per un motivo o un altro motivo c'è chi fa un digiuno per la ricorrenza di un genitore, c'è chi fa un digiuno per un sogno cattivo, c'è chi fa un digiuno per teshuvah. Qualsiasi fosse stato il motivo, una persona dal giorno prima a Mincha si fa, si dice nel momento di Mincha, io domani sarò in digiuno, accetto su di me come un nedere, come un voto, di fare un digiuno. Ora, se lui accetta questo digiuno su di sé, è chiaro che si astiene, ha accettato su di sé, cosa è la definizione del digiuno? Che accetta su di sé, prende su di sé l'impegno di astenersi dal mangiare e dal bere. Aleka, e in questo caso non c'è mangiare e bere, cioè per assaggiare si intende che lui lo assaggia, ma non che lo mangia, lo butta fuori, è solo per assaggiare. Quindi lo può fare. Domanda, aspetta, da una parte lui si astiene dal mangiare e dal bere, e non sta mangiando, non sta bevendo. Veha leka. E questi elementi di mangiare e bere non ci sono nel caso lui assaggiasse, inteso in questo senso. Però dall'altra parte, quindi forse sarebbe permesso. Dall'altra parte, Odilma. Cosa vuol dire Odilma? Oppure forse, abbiamo detto anche prima, Hana'a kabela lei. Forse l'accettazione del digiuno non è semplicemente l'accettare su di sé di astenersi dal mangiare e dal bere, ma dalla Hana'a, dal godimento che uno trae da questo. Allora forse il digiuno è una sorta di afflizione, diciamo così, che uno si astiene anche dal godimento che può trarre da quel tipo di cosa, del cibo, e quindi anche senza mangiare, anche solo assaggiando, potrebbe. Ica, questo invece elemento c'è. Leca vuol dire non c'è, Ica vuol dire c'è. C'è l'elemento di Hana, di godimento. Allora forse sarebbe vietato. Certo. È una cosa che può succedere. Ecco, adesso è stato il digiuno del 10 di Tevet. Mi preparo un buon minestrone perché fa freddo per rompere il digiuno. E devo assaggiare, mi sono dimenticato, sono messo il sale o non l'ho messo. È permesso o non è permesso? Se è per mangiare e bere, dovrebbe essere permesso. Se è per il godimento, ha voglia se c'è godimento quando fa freddo, è 10 di Tevet, ho digiunato anche solo assaggiare e poi lo butto fuori, comunque c'è un grande godimento. Allora qual è l'alaha? Questo pone a Shian, che è il Tana della Yeshiva di Rabbi Ami, e Rabbi Ami gli risponde così. Amar lei, disse a lui, Toem ve'en bekach klum, assaggia e non fa niente. Simile a quanto ha detto Rabbi Chia riguardo l'interruzione dell'allelo della Megillah, ha detto, non c'è nessun problema. Però in questo caso sarà motivata la risposta da una baraita, da una vera e propria fonte di Tanaim. Vediamo cosa dice la baraita. La Gemara dice, Tanya nami hachi. Tanya, abbiamo studiato in una baraita, nami anche hachi così. C'è una baraita che dice anche questo, che è in linea con la decisione alachica di Rabbi Ami, che ovviamente è un maestro della Gemara e successivo all'epoca delle Braitot, e quindi questo diventa una fonte importante per supportare la sua opinione. Qual è la baraita? La baraita dice, è una baraita che riguarda un altro contesto, inizia parlando di un altro contesto, ma poi parla anche del digiuno, e dice così. mit emet cioè l'assaggio, lit'om, l'assaggio, e inate una berachà, non necessita di una berachà, non richiede una berachà. La berachà si richiede quando si mangia, ma quando si assaggia non è necessario. Ok? E poi la braita continua e dice, Vehasharui betanit, e chi si trova a digiuno, toem assaggia ve'en bekach klum. Assaggia e non fa niente. Esattamente le parole che diceva dopo, tanti anni dopo, Rabbi Ami. Quindi questa è l'alaha. È permesso, la risposta alla domanda di Ashian è sì, è permesso. È permesso l'assaggio durante il digiuno, in questo modo. Ora la Gemara fa un'altra domanda. Ad kama. Fino a quando? Vuol dire qual è la misura di questo, il volume di questo assaggio? Allora la Gemara risponde subito dicendo Rabbi Ami e Rabbi Asi. Rabbi Ami è il maestro che abbiamo già citato, però anche il suo compagno Rabbi Asi, Tame ad shiur vita. Loro assaggiavano quando era necessario fino al volume di un revi'it. Revi'it è un quarto di un log, che è un volume molto comune e che è la base di molti volumi halachici, come il bicchiere del Kiddush deve contenere una Revi'it, e ci sono diverse opinioni a riguardo, variano tra i 60 e i 120 centilitri. L'opinione più accettata sta su circa 85, 86, 87 centilitri. Però lo ingoia questa quantità, l'ha poi ingoiato, se la assaggia. Sembrerebbe... La ingoia uguale. Aspetta. Quindi pure a chi pure. La famosa volpe, certo. No, è un'altra cosa, Qui stiamo parlando, secondo Rabbeinu Hananele, citato nel Tosafot, che non ingoia. Appunto, solo un assaggio senza ingoiare. Sciacqua la bocca. Esatto. Non trae godimento. È quello, perché se la ingoia è un godimento. Però c'è una discussione tra i poskim, qui riporta. Per ciò che riguarda l'assaggio, per ciò che riguarda soprattutto la berachà, se è necessario recitare la berachà prima dell'assaggio, alcuni dicono che anche se ingoia ciò che ha assaggiato, non parliamo del digiuno, il giorno in cui è permesso mangiare, no? Però la domanda è per la berachà. Alcuni maestri, come Rambam, dicono che se ingoia, comunque non deve dire la berachà, anche se lo mangia proprio per l'assaggio. Non deve dire la berachà. Ma altri dicono, come dicevo prima Rabbeinu Hananel, altri poskim, che questo è valido, il non dire la berachà è valido solo se poi lo risputa fuori. Se invece lo ingoia, in realtà non, cioè c'è discussione nei poskim, anche negli ultimi poskim, diciamo, il Rama, cioè sul Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Isterles, è più facilitante, secondo lui non si deve fare la berachà anche se lo si ingoia, nel caso dell'assaggio. Secondo altri maestri si deve sì fare la berachà. Qual è la soluzione? Io per me... Prepara un piatto anche per l'assaggio. Quindi praticamente è tutto legato a... Cioè, sarebbe tutto legato al discorso della berachà. Cioè, se tu ingoi una quantità che richiede la berachà, o fai digiuno, no? Allo stesso modo interrompi il digiuno. Sembrerebbe che invece, però sì, non è necessariamente così. Non è necessariamente così, perché ti spiego perché. Scusate, solo un'altra cosa. Questa è l'alaha per ciò che riguarda l'assaggio quando non è digiuno. Normale, non si dice. Giusto. Come? Se si assaggia non si dice la... Esatto, si può seguire la linea facilitante e non dire la berachà solo per l'assaggio, però Però, nel caso del digiuno, i Tosfot fanno una distinzione importante, e cioè che è permesso assaggiare nel digiuno, come diceva Rabbi Ami, ed era supportato poi dalla Baraita, che abbiamo trovato la fonte che dice la stessa cosa, Toem ven bekach klum, cioè può assaggiare, non fa niente, ma distinzione molto importante. Solo betanit yachid e non betanit zibur, vuol dire... Questo è valido solamente in un digiuno personale, non in un digiuno pubblico. Tutti noi stavamo pensando al digiuno pubblico. Invece la Gemara stava pensando solo al digiuno personale. Nel digiuno pubblico, invece, ed è riportato nello Shulchan Aruch, non si può assaggiare. Quindi non come l'esempio che ho fatto del 10 di Tevet, i Tosfot dicono, e poi è codificato, che solo in un digiuno privato, sì, privato, non in un digiuno pubblico, lì neanche assaggiare. È più logico, sì. Ok. In quel caso c'è, può esserci di uno che non... Scusa. Uno di mestiere. Permesso di non assaggiare. Guardiamo solo il commento di Rashi. Guardiamo il commento di Rashi dall'inizio della pagina, che è sopra a destra. Rashi dice: Achai, commenta la parola Achai. Vi ricordate chi era Achai? Chi era? Il Tana della Yeshiva. Benissimo, era il Tana della Yeshiva di Rabbi Chia. E Rashi ci dice: Achai, kach shemo, questo è il suo nome, perché non è necessariamente che sia comune il nome Achai, e anche si potrebbe leggere Achi, mio fratello, sì. O Achi Tana di Rabbi Chia, il fratello del Tana di Rabbi Chia. Invece... Allora Rashi dice no, Achai è proprio il suo nome. Le Gemarot con i cori puntini è una cosa nuova. Che noi leggiamo Achai e non Achai perché abbiamo i puntini, però non è una cosa nuova che ci sono le vocali nelle Gemarot. Achai Kachshemo, questo è il suo nome. Poi dice Tana Dvei Rabbi Achia, spiega che Achai, quello che abbiamo spiegato a voce, Shaya Shone Bevet Rabbi Achia, lui era il responsabile di Shone, di ripetere le fonti, di conoscere, quindi poi di ripetere quando necessario, nella casa, cioè nella yeshiva di Rabbi Achia. E la domanda che lui fece era Mahu Sheyafsik, se è permesso interrompere, interrompere per cosa? Rashi fa l'appunto. Non interrompere per chissà che, per sapere se la Roma sta vincendo. Interrompere l'Ishelat Shalom. Interrompere per il saluto come il contesto di cui si parlava nella Mishnah. E c'è stata poi l'opinione di Rabbà, che poi abbiamo visto sarà quella accettata dall'Alaha. Rashi dice, Yamim Shayachid Gomer Behenet Halel. Rashi commenta queste parole di Rabbà, che fa riferimento ai giorni in cui si conclude l'Halel. E Rabbà usa la parola Yahid, il singolo. Che vuol dire il singolo? Non ci siamo soffermati prima su questo. Abbiamo sorvolato apposta, sono sorvolato, però adesso vediamo in Rashi. I giorni in cui il singolo, normalmente Yahid vuol dire chi prega da solo senza Minyan. Che differenza c'è se prega con Minyan o senza Minyan? I giorni in cui il singolo conclude la Lel, i giorni in cui il singolo non conclude la Lel. Che c'entra il singolo qua? Il Minyan fa la stessa cosa. Allora Rashi dice, traduce, senza neanche entrare troppo, dice così, Shehu chova le kol adam. Yachid vuol dire ogni singolo ha l'obbligo. Se con Minyan o senza Minyan, è un altro problema, però ogni persona ha l'obbligo, questo intende dire Rabbà. Chova, è obbligatorio, in questo senso. Vehem echad vesrim yom bashana, che sarebbero, come abbiamo già detto prima, 21 giorni nel corso dell'anno, che damrinan bemasechet arachin, come si è scritto nel trattato di Arachin. Poi Rashi continua e commenta la seconda domanda che abbiamo posto a nome di un altro Tana, che sarebbe stato Ashian, che ha detto Mahu Sheitom, può assaggiare etatavshil, Rashi dice, assaggiare che cosa? Etatavshil, una pietanza, la dat, per sapere, tzarich melach o tavlin, se necessita di sale o un'altra spezia, condimento o spezia. E abbiamo poi citato la Baraita che ha detto mit emet non è una parola comune, Rashi la spiega, teimat tavshil, l'assaggio di una pietanza, teimat tavshil. Abbiamo concluso dicendo qual è il volume fino a quale si può assaggiare in un giorno di digiuno, che poi abbiamo detto solo digiuno privato. Reviata, e Rashi dice Reviata lug, un quarto di un log. Sarebbe un cucchiaio. No, è più di un cucchiaio, sì, è con un bicchiere così, sì. Allora con questo concludiamo, fate i compiti, così sarete preparati.